La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Sesso senza amore, sesso senza cuore, senza un batticuore, difficile amare. Sesso solo sesso, fine a se stesso. Sono un po' perplesso, mi sento depresso. Bella questa canzone di Giorgio Conte, è una specie di risarcimento e anche di presa in giro rispetto a tutte le a questo gran straparlare che si fa di sesso. Ai miei tempi c'era questa, si veniva da questa educazione repressiva e si sognava quella che chiamavamo la liberazione sessuale. Non si sognava un mondo così assurdo. Immaginiamo fra 200 anni, se ancora sarà rimasta pietra su pietra della nostra civiltà, qualcuno che riguarda le vecchie trasmissioni televisive e vede tutte queste persone in circolo che parlano del sesso, che descrivono il sesso e soprattutto questa esasperazione per cui te lo vogliono far prendere come una medicina. Io credo che i massimi responsabili, ma nemici di Eros, i responsabili del calo del desiderio, siano i sessuologi in TV e tutti questi talk sul sesso, che servono soltanto a far passare la voglia, a farvelo passare la voglia anche a King Kong. E poi c'è questo ricatto, no? Te lo vogliono far prendere appunto per forza, in dosi massicce. E addirittura adesso c'è questo nuovo mercato per vendere il Viagra, che poi è soltanto una cronicizzazione della paura di non farcela. Per vendere, per spacciare i loro farmaci, ti vogliono far credere anche che l'età non esistano, che a 80 anni devi praticare il sesso come a 20, ma è una follia, oltre che una violenza. Ho sentito un sessuologo che diceva convintamente che la scienza dice che chiunque possa fare due rampe di scale può ugualmente avere degli ottimi rapporti sessuali. Ma ora voglio dire, e gli altri invece non vivranno abbastanza, ti dicono, ma no, non è obbligatorio, però si rischia. Vorrei chiedere se la scienza sa quante endorfine produca in un essere umano, non so, comporre una sinfonia, oppure stare in buona compagnia. Perché allora i monaci vivono fino a 100, addirittura 120 anni? Quindi questi loro teoremini sono solo dei piccoli spot per le loro schifose pillole. Questa è una lettera alla quale non risponderò, perché condivido parola per parola, si risponde da sola. L'immaturità sessuale è un diritto. È una donna che scrive. In passato gli uomini hanno tolto i connotati terrestri alle donne, facendone il tramite col divino. Beh, anch'io. Io voglio l'uomo angelicato, che sia per me dulcinea e angelica, che io giostri in suo onore, compiendo prodigi di valore senza che me lo impedisca, senza che occupi la mia casa, il mio pensiero, il mio letto. Questo si chiama perfezionamento del progetto di una vita e sottende una convinzione molto ingenerosa, lo ammetto, che in paradiso non è possibile andarci in due, si pesa troppo. Rocco, come stai? Rocco, come fai? Rocco, cosa prendi? Tu che te ne intendi? Una sera ero a casa di amici. Le donne della mia età si vantavano della loro vita sessuale sempre più attiva. Pare che da vecchi sia meglio, ma non so. Allora io non ne potevo più e a un certo punto ho tirato fuori la mia idea dell'uomo angelicato. C'era anche un sessuologo. I guardiani del mercato. Figuriamoci, apriti cielo. Ha cominciato a dirmi davanti a tutti che era una repressa, che mi sto rovinando la salute, che il sesso va tenuto vivo fino alla fine, pena qualsiasi cosa. Ma io ingenuamente dico, ma e se non mi va? Ci sono dei farmaci che l'aiuterebbero. Ah, lì siamo, questo mi vuoi vendere. Allora io rispondo, scusi dottore, ma perché mi devo drogare per farmi venire una voglia che non ho. La volpe l'uva. La volpe è lei che mi vuole spacciare le sue pillole. Il sessuologo è passato le minacce. Ha elencato tutti i mali che derivano dall'astinenza. Anche a 80 anni, anche a 90, anche quando non hai più respiro. Lui ne ha 76 e con la moglie, giovane, si vanta anche due volte al giorno. Che oltretutto è anche un'indiscrezione. Perché ti devo immaginare a letto? Già non mi piaci da vestito. Voglio dire, perché ti vuoi imporre il mio immaginario in questa maniera? Come fanno questi orribili politici con i loro riti mortuari, con le ragazze pagate? Voglio dire, che è uno spettacolo, è uno show che fanno davanti all'Italia perché molti piace. Insomma, il sessuologo, andando via, mi lancia l'ultimo anatema e mi dice: continui così e vedrà. 6 mesi dopo è morto. La guardiana del faro. Come richiesto, il cantautore Giorgio Conte è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. A innamorarsi, sai, ci vuole un attimo. A guarire poi non basta un secolo. Ma è così bello, sai, soffrire per amore. È così bello, sai, amare, amare ancora. Ehi, Giorgio, sei qui? Sì, ci sono. Come dice sempre Gianluca Nicoletti, la poesia non si commenta, quindi non ti farò lo sgarbo di guastare la tua canzone con un commento. Ma in realtà io ci gioco un po' quando presento questa canzone, soprattutto in Francia, perché faccio finta di aver tratto ispirazione da un celebre verso di un poeta francese, di cui non dico il nome perché sarebbe un insulto alla cultura di coloro che mi stanno ascoltando. No, insulta la mia cultura, che io non ho afferrato invece la citazione, vedi, sono il più ignorante dei no, tuoi ascoltatori. No, ma è una burla, nel senso che io dico, questo poeta ha scritto «Pour tomber amoureux, ne suffit qu'un instant, pour oublier parfois, siècle ne suffit pas». Tutti stanno a bocca aperta perché cercano di capire chi è questo maledetto poeta e poi io allora sciolgo l'enigma e dico «No, tranquilli, non esiste, sono io in francese». Ah, meno male! Perché a me piace... Mi piace scrivere in francese e poi mi traduco, mi sento più importante. Caro Giorgio, non ti vedo da molti anni, ebbi veramente la grande gioia di fare questo giro, ti ricordi questo giro da Zingari quando tu hai scritto il Conte Storie con quella casa editrice che purtroppo adesso non c'è più, che si chiamava Gallo e Calzati, sì. Ti ricordi con Francesco Gallo e gli editori, ricordo, e l'altro sì. Si chiamava Calzati e meritava il suo nome perché aveva sempre delle scarpe bellissime. Sì. E facciamo questo giro appunto proprio da Capitan Fracassa per tutta l'Italia. Sì, il caso di Tespi, insomma. Sì, e tu facevi poi musica e... Io facevo l'ospite di alleggerimento. Erano i momenti più belli, anche perché ogni sera non era mai sì, uguale. È stata una fugacissima frequentazione, però io non ho mai smesso di ricordarti. Ah, neanch'io. Soprattutto perché ho sempre gelosamente conservato quella splendida dedica a una mia canzone. C'è una luna nel cielo, una luna splendente, tutta acqua e sapone, bianca luminescente, ma una luna calante, una luna perdente, brilla sopra una terra sempre più agonizzante. Ehi Giorgio, che invidia! È una delle mie poche canzoni un po' astratte, un po' parapoetiche, diciamo, non poeticissime forse. Però è una canzone che anche all'estero, quando faccio concerti, anche se non se le parole non arrivano completamente, c'è comunque un afflato, una situazione così di stupore che prende. E sai che alla fine dei concerti c'è sempre il piccolo banchetto con i dischi che si vendono. Spesse volte mi è stato detto: ma in questi dischi c'è Come bella luna, dico, ma sì, tranquillo, perché se non c'era non compravano il disco. Come bella la luna, come bella la luna. A proposito dei tuoi piccoli segreti, ci dici cosa c'è dietro invece Tenevena Angiulil? Perché è molto ermetica ed è molto evocativa. Sì, allora partiamo dal presupposto che io ho un cognome che mi dicono essere di origini partenopee, soprattutto nella zona di Ischia, di Conte si sprecano. E quindi ogni tanto mi viene fuori qualche ordito musicale classico napoletano. La musica sembra una vecchia canzone napoletana. Per quanto riguarda il testo, sono situazioni così poetiche, ma che in realtà hanno un aggancio alla vita vissuta. Quindi quest'Angiulillo è un amore che se n'è volato via perché non ti sopportava più, non ne faceva più. Anche nel momento della massima commozione poi c'è un'unghiata umoristica che ride di se stessa e di chi ascolta. È vero, perché io sdrammatizzo sempre per carattere. E sdrammatizzando ridrammatizzi, quindi è un circuito poetico senza crepe. Teneva un angiulil, com'era biondo, com'era bellil. Teneva un angiulil, namuratiel. Cantava una canzone così dolce, così bella. Cantava una canzone graziosa e bella, namuratiel. Si direbbe che con tuo fratello Paolo, più che fratelli, siete gemelli divisi, perché anche lui sente ogni tanto questa nostalgia del napoletano, della canzone napoletana. Sì, è vero. Voi siete veramente come gemelli, cioè sentite uno la cosa dell'altro. Ma in parte siamo gemelli, in parte siamo germani, nel senso che abbiamo le stesse radici, gli stessi gusti, se dobbiamo mettere della musica mettiamo la stessa, se ascoltiamo sempre gli stessi artisti. Però c'è un problema di carattere, insomma, forse lì non siamo gemelli, perché Paolo è molto introverso, molto sempre insoddisfatto di se stesso, sempre. Io sono un po' più un bonhomme, come dicono i francesi. Sei più clemente con te stesso? Sì. E senti, mi dici una cosa che mi ha sempre incuriosito enormemente. Ma com'è che hai studiato legge? Ma io l'ho fatto per 25 anni. Com'è stato? Beh, anche lì i miei clienti diventavano quelli che avevo avuto come avversari in una causa, perché si rendevano conto che oltre ad aver avuto di fronte un avvocato, avevano anche di fronte un uomo che capiva le loro debolezze e quindi si comportava umanamente, non come la maggior parte degli avvocati che sono veramente delle belle. Delle bestie, sì. E quindi i tuoi nemici diventavano i tuoi clienti, questo esatto. Sì, sembra strano, ma è così. E poi c'è un momento appunto in cui smetti di fare l'avvocato, se non sbaglio nel 1993, e diventi diventi musicista e ti dedichi ai concerti. Ecco, questo strappo com'è stato? Naturale, nel senso che a un certo punto mi sono reso conto che a 50 anni non potevo sperare in una vita di altri 50 anni perlomeno. E allora mi sono detto basta, bisogna che prenda il coraggio a quattro mani e decide di dare sfogo a questa mia passione, per cui grazie anche al coraggio di alcuni musicisti che mi hanno trascinato appeso sul palco, ho cominciato a capire che la mia seconda vita era quella, quindi mi ci sono buttato a capofitto e ancora adesso vado e vengo con molto piacere. Adesso faccio una capatina a Parigi e poi vado in Austria e poi torno a casa per ripartire subito dopo. E quindi finalmente nomade. Sì, ho scritto anche una canzone che si intitola Nomadi e che parla proprio di questo nostro destino, quello di andare in giro, di curiosare. Recentemente ho sentito Kirk Douglas che interpretava Ulisse e in una scena del film si confidava con un suo compagno d'avventura, diceva: tu non sai quante cose, quante persone ho nostalgia di non aver ancora visto, ecco, una nostalgia precedente, insomma. Anche a me per questo mi dispiace morire, perché poco a poco cominci a capire tutto quello che non vedrai e che non saprai. E poi è vero, anche io, cioè a un certo punto si fanno dei conti aritmetici e si organizza l'ultima parte del ballo, diciamo. L'ultima parte del ballo, bellissimo. Senti Giorgio, adesso ti meno un colpo basso. Dai. Ci descrivi Giorgio Conte come se ce l'avessi davanti, fosse un altro, e devi descriverlo a chi non lo conosce. Potrei descrivermi come mi ha descritto molto ironicamente, simpaticamente, un giornalista di Digne-les-Bains. Aveva fatto il primo mio concerto oltre Alpe e il giorno dopo ci siamo corsi io e i miei musicisti in edicola per vedere se c'era già un articolo, una recensione, e la recensione c'era. E cominciava così: le public frémit sur les gradins, on attendait Giorgio Conte. A un certain moment sur scène apparu un large bonhomme grisonné. Ecco, adesso large bonhomme, aspetta. Large bonhomme grisonné. E lì io mi sono detto basta, basta, chiudiamo, andiamo a casa, la mia carriera finisce lì. Perché sul large io sono d'accordo, anche se adesso sono dimagrito un po'. Ma bonhomme pensavo fosse un termine un po' così da bonaccione, invece no, vuol dire persona gioviale. Large bonhomme grisonné, vabbè, cominciavo a incalutire. E poi ho continuato a descrivermi, dice, scarpe da lavoro ai piedi, vecchi jeans, le porte-monnaie che sortait de la poche, mi avevano fregato il portafoglio qualche tempo prima, lo portavo sempre con me, e però usciva dalla tasca e non era un gran tocco d'eleganza. Le porte-monnaie che sortait de la poche, e tutto il mondo, le teatri, tutti in teatro, nessuno escluso, hanno pensato che era scoppiato un tubo dell'acqua e finalmente le plombier était arrivé, l'idraulico era arrivato. Quindi sono un idraulico fuori, ma poeta dentro. Non ho mai visto una descrizione così gretta, devo dire. Ma perché... poi lui ha concluso, mais enfin le plombier, broche la chitarra, brancato la chitarra, abbiamo capito tutto di cosa si tratta. Io trovo che tu sia totalmente l'involucro perfetto delle tue canzoni. Credo che se non ti conoscessi ti vedrei dietro. Mi piace perché... questa definizione, mi piace, sei sempre lapidaria. E la tua voce ti descrive perfettamente. E comunque, senti, se ti può consolare, caro Giorgio, Curzio Malaparte scrisse su Lenin Le bonhomme Lenin. Quindi... incroyable. Quando dall'alto del tuo faro incontri lo sguardo della luna, ricordati ancora di me. La guardiana del faro. Uno dei vantaggi di stare al faro è che non prendo mai la metropolitana, che non mi piace per niente, quella discesa in una lunga tomba, noi come topi in fuga sulle scale mobili. E poi c'è un'altra cosa in metropolitana: agli inferi si incontrano i morti, come nel verso di Pound, les yeux d'une morte m'ont salué, gli occhi di una morta mi hanno salutato. E infatti vedo, l'ultima volta che sono andata, un viso specchiato nel finestrino. Accidenti a lui, uno che in un'altra vita, quando io ero un'altra e lui era un altro, l'ho tenuto tra le cose prime. Uno che ho amato e cancellato perché ha preso una strada che mi dispiace anche vederla. Uno che ha scelto Satana e le sue pacchianissime pompe. Allora era un abatino pieno di grazia. Adesso lo guardo lì in metropolitana, ha una faccia da brigante triste. Incontrarlo mi dispiace molto, perché è come vedere Dio quando non ci credi più. Ma poi mi chiedo anche, questo è uno che di solito gira con l'elicottero, oppure con degli autisti, forse armati, ma che ci sta a fare qui nel sottosuolo? Beh, sarà per vedere i poveri, perché i ricchi godono solo per confronto. Però sto zitta, per una volta mi contengo, la voglio fare corta, non voglio entrare in intimità, e dico ciao, tranquillissima. Intanto però penso, Disgraziato, hai venduto l'anima proprio nel momento peggiore. Adesso che il mercato è saturo, che il diavolo non ne vuole più, non sa dove metterle, se ne sta barricato per resistere a questa ondata umana che preme alla sua porta e vuole essere solo venduta, comprata, venduta. E l'anima di quest'uomo l'ha presa giusto perché valeva qualcosa tanto tempo fa. Oh, e poi ha sempre pagato poco, come ho detto altre volte fin dai tempi di Faust, al quale Mefistofele dà solo 24 anni di onnipotenza in cambio dell'eternità, una truffa. Non ho aperto bocca, però lui ha sentito tutto, lo stesso. E allora, in pochi secondi, mi dimostra disperatamente che sta vivendo la migliore delle vite possibili, che è felice e soprattutto, ripete ossessivamente, che non ha padroni. Io non ho padroni, io non ho padroni. Anzi, lui è un rivoluzionario, molto più libero di me, cosa che io non capirò mai perché sono una moralista. Oh, io mi ero giurata di non dar nulla di me, mi ero giurata di non sprecare l'emozione. Però devo dire, c'è in lui qualcosa di così invincibilmente infantile che mi contagia. E allora gli rispondo, sai, è un gran bene che non me ne importi più nulla di te, perché se ti amassi come allora, sarei costretta a fare come Glenda Jackson in Tripla Eco. Oh, la citazione è volutamente oscura, perché so che lui non conosce questo vecchio film Tripla Eco di Michael Apted del 1972. La metropolitana si ferma, io salto giù per chiudere in bellezza e anche per non dargli il tempo di farmi domande. E allora, mentre io sto nella banchina e riparte la metropolitana, mi sfreccia davanti il suo viso. È contento. Allora capisco che non ha afferrato la minaccia. L'ha preso per un messaggio d'amore. E forse è vero, nonostante. Questa è un'espressione che mi viene dal concetto di Chiara Valerio nel suo libro La gioia piccola d'essere quasi salvi, pubblicato Non notte tempo. Adesso io voglio raccontare che cos'era questo film Tripla Eco e che cosa avrei dovuto fare se lo avessi amato ancora. È il 1942, siamo in Inghilterra, c'è la guerra. Glenda Jackson, che nel film si chiama Alice, è rimasta sola perché il marito è prigioniero in Giappone e lei vive in campagna nella sua fattoria. Capita lì e fa amicizia con John, un soldatino, che nelle ore libere viene sempre più spesso ad aiutarla a fare i lavori pesanti. Lei e John prima sono compagni di fatica, poi di gioco, sono meravigliosamente affini e alla fine diventano amanti. Lei è una donna di quasi 40 anni, lui non ne ha 20 e non è un guerriero. È un ragazzino che è stato strappato alla sua famiglia, un ragazzino che odia la guerra, la divisa, la caserma, la minaccia di essere mandato a morire da un momento all'altro chissà dove. E Alice diventa tutto il suo mondo e non vorrebbe più tornare in caserma. Vorrebbe soltanto dormire abbracciato a lei ogni notte. Quando se ne va, la sera gli è sempre più difficile lasciarla. Finché un giorno decide che diserterà. Decide che non tornerà in caserma e che resterà con lei. È una decisione molto pericolosa per entrambi. Quindi Alice, che è più adulta, cerca di dissuaderlo, gli prospetta tutti i pericoli. Però l'entusiasmo di lui la trascina, perché sono innamorati e quindi è anche una grande sfida, una grande avventura che faranno insieme a loro rischio e pericolo. E diventa sua complice. Ora, la fattoria è isolata, però intorno c'è il villaggio. E lei, per non insospettire la gente del villaggio, veste il suo amante da donna. Gli rade i peli delle gambe, gli mette delle belle scarpine, un abito con la gonna e dice la fa passare per sua sorella. E anche insegna a John a muoversi come una donna, a modulare la voce. E John si diverte moltissimo in questo gioco. Intanto poi i capelli stanno crescendo e quindi la finzione è perfetta. E John, con la ciocca sul viso, il rossetto, è una bellissima ragazza. È così bella che capiterà un grosso sergente, Oliver Reed, molti ricorderanno questo attore grosso, molto con un'espressività molto potente, che è un sergente, e capita lì durante un'ispezione, vede John, cioè questa finta ragazza, e se ne invaghisce, perde la testa, e sta sempre tra i piedi delle due cosiddette sorelle. John è lusingatissimo dalla corte di quell'orco, e non fa che incoraggiarlo. Un po' lo prende in giro, un po'... con quegli abiti da donna, con quelle mossette, sta entrando nella parte senza volerlo. Chi è disperata è Alice, perché è anche un po' gelosa di vedere che razza di civetta sia diventato il suo amante, ma anche e soprattutto vede il rischio di questo gioco esplosivo. Così, Quando viene il sergente in visita, lo tratta malissimo, cerca di scoraggiarlo in tutte le maniere, ma lui ride di lei alle sue spalle con John, con la falsa ragazza, e fa un sacco di malignità, dice per forza, Alice è un po' sfiorita, non è più giovanissima, è gelosa del successo della sorella. E John, cosa ignobile, ride alle spalle della cosiddetta sorella, ride alle spalle di Alice. E muovendo questi bei capelli, con questi gesti femminili imparati da Alice, si diverte a far perdere sempre di più la testa al soldato. Naturalmente il soldato non è un sentimentale, è un uomo rozzo che mira al sodo. Però lei, cioè John, riesce a tenerlo a bada, scoprendosi una civetteria infinita. È diventata una specie di fraschetta impudente. Alice è sterrifatta se lo vede cambiare sotto gli occhi ed è indignata della sua fatuità, oltre che spaventata. E quando però vorrebbe imporgli la prudenza, John diventa una vipera. Non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo gioco. Lui sta giocando col fuoco, lo sa benissimo, non l'ha mai fatto prima e si accorge che niente gli è mai piaciuto tanto. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo. È la vigilia di Natale. Il sergente viene a prendere la sua ragazza per portarla al ballo in caserma. Alice non vuole assolutamente che ci vada perché prevede un finale drammatico. Gli sbarra la strada, dice no, mi dispiace, mia sorella ha la febbre alta, non può venire. Questo bestione, borbottando, si sta congedando, deluso. E in quel momento, in cima alle scale, appare John. Bellissimo. Vestito da sera, calze di seta, tacchi alti e un'andatura da mozzare il fiato. E fa questa discesa, Alice allibita, il sergente in fiamme. Le dà il braccio, se la acchiappa e vanno via insieme. E Alice, impotente, li vede allontanarsi nella notte. Al ballo, John è la regina. E la sua vanità tocca il cielo. Gli occhi dei soldati ce li ha tutti addosso, sono tutti per lei. Il sergente scoppia d'orgoglio e di voglia. Due valzer, qualche birra e subito dopo la festa diventa rapidamente ciò che è, cioè una brutale orgetta tra militari. I soldati vanno per le spicce, ognuno si acchiappa la sua donna e senza nemmeno curarsi di appartarsi in piedi, sui tavoli, addosso ai muri, comincia questo rito sbrigativo. E anche il sergente si butta addosso a John e ha un tale impeto che John ha un bel difendersi con le sue smorfiette, le sue allusioni, come ha fatto finora. Adesso sono nel territorio suo, sono in caserma, non ci sono storie. Lui la acchiappa e si accorge dell'inganno. Si accorge che sta stringendo tra le braccia un maschio. Possiamo immaginare, la sua furia è terribile. Si sente macchiato, si sente ridicolizzato e c'è un solo modo per cancellare questa, anche l'attrazione che lui ha provato. Ammazzarlo come un cane. Prima che lo sappiano i suoi compagni, prima di essere coperto, secondo i suoi modi di vedere, strettamente militareschi, di ridicolo. C'è un inseguimento drammatico, ma John riesce a scappare, perché poi, senza tacchi, è un ragazzino di 19 anni svelto come una lepre, e quindi riesce a scappare. Quasi all'alba arriva alla fattoria e Alice capisce che il peggio è successo. Se lo vede arrivare lacero, col vestito strappato, bianco di paura, col trucco sfatto, ha giusto il tempo di abbracciarlo. Perché come un'orda arrivano i soldati capeggiati dal sergente. Lo arrestano come disertore, ma si capisce che la vendetta andrà molto oltre questa cosa, che sarà una vendetta atroce. Lo trascinano via com'è, vestito da donna, col suo trucco sfatto. Alice, disperata, dalla finestra li guarda avviarsi. Appena fuori dalla fattoria, a pochi passi, comincia il calvario di John. Pugni, calci, lazzi pesantissimi. Lui disperatamente scappa, cade in un fosso, si rialza, si arrampica sul greto con i soldati dietro. I soldati lo raggiungono, lo circondano. John non ha scampo. Alice, dalla finestra, prende il fucile e spara al suo amante. Lo ha salvato, lo ha ucciso. Gli ha risparmiato una morte lenta e orribile, le torture, gli oltraggi. Almeno così pensa lei. Lei pensa di aver fatto un atto di estremo eroismo, di amore e di pietà. Infatti c'è sempre una nobile scusa per uccidere. Ma forse Alice non ha capito niente. Alice non ha capito che John aveva scoperto una vocazione, che più che beffare il sergente voleva esserne amato. Alice ha sovrapposto la sua vendetta a quella del sergente, gliel'ha rubata, e almeno in questo, e solo in questo, ha vinto sul suo rivale. E a John, forse, ha fatto l'ultimo dispetto da sorella maggiore, perché forse lui, nell'esaltazione della sua scoperta, compiva un'esperienza assoluta fra quei soldati, quei calci, quella violenza. È l'arroganza dell'amore. Volere per l'altro, credere di contenerlo. Ecco, credo che sia così anche con l'uomo della metropolitana. Magari lui nelle pompe di Satana, io lo vedo rovinato, ma magari lui nelle pompe di Satana ci sta benissimo e si sente, nella sua non libertà, si sente fighissimo, si sente il meglio di tutti. È proprio un gran bene che non lo ami più. Come Glenn Jackson, lo avrei ucciso di certo arbitrariamente e solo per orgoglio. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ero drogata di lui. Stavo male fisicamente quando mi mancava. Lui ha 45 anni, io 32. È alto come una montagna, io piccola come un sassolino ai suoi piedi. È durata 3 anni. Sai com'era il nostro rapporto? Sempre e solo rapporti orali da parte mia. Non gli piaceva altro. Solo farselo succhiare, scusa la volgarità. E io a farlo godere così per 3 anni. Per farmi amare da lui, avevo imparato a farlo godere talmente bene che mi ero illusa di tenerlo legato a me per sempre. Non era masochismo, era di più. Era la mia mamma e il mio papà che mi hanno sbattuta a soli 4 anni in un istituto. Un giorno avevo bisogno di sentirlo, lo chiamo. Lui sbraita che ha da fare e che non vuole avere a che fare con una malata di mente. Non riesco a dimenticarlo. Sembro una donna sana, di bell'aspetto, con un marito e 2 figli, da invidiare. Domani farò una passeggiata sperando di incontrarlo. Ricomincerà tutto? È meglio sentire il dolore o sentirsi un vegetale? Un pulcino infreddolito. Ma sai, se fossi una femminista armata ti direi... Quel porco, ma come? Una sessualità così a senso unico. Merita una punizione esemplare, tagliamoglielo. No, però no, io invece sono una casalinga disarmata. E ti dico che in fondo mi intenerisce il misterioso equilibrio delle cose. È vero, lui era la tua mamma e per 3 anni ti ha allattata. Per 3 anni tu, attaccata alla sua fonte di vita, hai succhiato infanzia e dolcezza, come dal seno di una madre che non avevi avuto. L'allattamento però, come si sa, non è eterno. Prima o poi bisogna essere divezzati. Ed è un momento tragico. Ne soffrono i bambini e ne soffrono gli adulti. Come te, che in quel rito ti rannicchiavi e ti consolavi. Lui comunque è un bruto. Prima vive con te una complicità alienata, un'intimità segreta e seducente. Poi ti dà della matta. No, non va. Non va che tu speri di rivederlo. Tu devi imparare ad allattarti da sola. Ricevo la lettera di un ragazzo che vive in un paesino piccolo e ha paura di essere riconosciuto, e che è cattolico ed essendo omosessuale è molto impressionato dagli anatemi che la Chiesa continua a scagliare contro i gay. Si firma Paperino. Caro Paperino, è un fatto che la Chiesa divide il corpo dall'anima, ma poi si occupa solo del corpo, trattandolo come porta per l'inferno. Però Gesù è stato assunto in cielo col corpo, con tutte le sue debolezze di coraggioso, di maschio, di figlio della donna, e non si è mai accanito contro Sodoma. Invece Benedetto XVI sì. Io credo che l'omosessualità sia una difformità angelica. E in questa crociata della Chiesa, dove li metteranno quegli angeli di marmo delle chiese, che sono più belli di qualsiasi Ganimede accanto a Giove? Ti voglio raccontare il finale del secondo Faust di Goethe. Faust è morto e il diavolo si presenta a chiedere la sua anima perché gli spetta. E invece si trova gli angeli che difendono l'anima di Faust e se la vogliono portare, in nome del pentimento finale, se la vogliono portare in cielo. E quindi c'è questa lotta tra angeli e diavoli per acchiapparsi l'anima di Faust. Oh, Mefistofele ha tutte le ragioni. cioè anche legalmente. Lui quell'anima l'ha comprata, ha tanto di contratto, firmato col sangue, e gli appartiene. Invece gli angeli, pur di vincere, per confonderlo cosa fanno? Si girano e a fin di bene gli mostrano le terga. Il diavolo, abbagliato dalle divine forme, si distrae. Quei bei maschietti, io godo nel guardarli. Che cosa mi trattien dal bestemmiarli? Odiai finora questi bricconcelli, ma or li trovo davvero troppo belli. Voi fluttuate ondeggiando qui e là. Un po' più in basso, via, scendete qua. Le vaghe membra muovete pian piano, in modo leggermente più mondano. Certo, la gravità vi sta a pennello, ma un sorrisetto sarebbe pur bello. Quel visetto da prete non vi va. Potreste andar più nudi, in verità. Alzatevi su via quei camicioni. Si voltan, per di dietro quei bricconi son veramente troppo appetitosi. E qui che gli angeli, svelti svelti, acchiappano l'anima di Faust e con lei si involano. E Mefistofele dice disperato: «Che succede? Lo stuolo dove è andato? Razza di minorenni, mai gabbato! Paperino, prendite la calma!» La traduzione è di Liliana Scalero. Come un Martin pescatore, mi son tuffato dentro al lavandino che prima avevo riempito con cura, in modo che l'acqua non trasbordasse. E per tornagusto voglio anche leggerti una poesia di Verlaine che si intitola Ces passions, ovvero sia queste passioni, e parla naturalmente dell'amore tra maschi. Queste passioni, che essi soli chiamano ancora amori, sono degli amori anch'essi, teneri e furiosi, con dei caratteri curiosi, che non hanno certo gli amori di tutti i giorni. Ancor più e ancor meglio di quelli eroici, si ornano di splendori dell'anima e del sangue, tali che, a paragone, gli amori dei normali non son che giochi e pruriti maliziosi, e commediole insulse e inezie di bambini viziati. Ah, poveri amori banali, animali, normali, grossi appetiti e rozze voglie, per non dire la stupidità e la fecondità. Ah, e ancora una cosa. Ascolta, Paperino, questo è Sandro Penna. Felice chi è diverso, essendo egli diverso. Ma guai a chi è diverso, essendo egli comune. Quindi cerca di non avere paura, perché è la paura che ti fa comune. E senti quest'altro. Amore, amore, lieto disonore. Stavo un bijou, fresco e rilassato, convinto tra l'altro di averti ormai scordato. Ma mi illudevo, perché tutto a un tratto in fondo all'acqua ho visto te. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.